Una mostra, abbiate un'idea di una mostra. E a me da tempo c'era questa idea e quindi gliel'ho presentata e a lui è piaciuta tantissimo. Ah, ma questo lo devi fare, in realtà era una simulazione, mentre invece poi l'hanno fatta, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Cioè, non so se No, perché va bene, poi non mi dico tutte le cose, mi interne. Sì, no, lui mi sa, ma poi devi mettere anche Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, e lì mi ha dato veramente l'intuizione. Quindi sono passati tanti anni, ho tentato di fare la mostra, non sono riuscito, qualcun altro l'ha fatta, come al solito. E poi no, nello studio Campobario, doppia coppia anni fa, abbiamo fatto doppia coppia, in cui abbiamo invitato quattro doppia, però fatto, ed era una specie di trasmissione televisiva come quella con Catherine Spack, no? Sul divano, era lì a casa di mia zia, siamo messi a chiacchierare con le coppie, una coppia si è separata, non mi dirò quale, alla fine, dopo. Cioè, quindi c'è pure ho sulla coscienza. Sulla coscienza, eh? Ho sulla coscienza. Galeotto al contrario. Contro Galeotto. uno scoppio. E però è un'ossessione anche perché io ho fatto diversi lavori in coppia con Paolo, con Marco, insomma, tante persone. E però sono anche allievo di Giannini e Luzzati, ce ne sono una coppia. E poi casualmente a me le coppie piacciono fare un po'. Fratelli Quay, le sorelle Wilson, sorelle Bandiera, le sorelle e gemelle Kessler, i gemelli Guerrera, no? Come dire, tutto quello che è doppio per me è più bello. Due è meglio, due gusti è meglio che sta registrando ovviamente. Due gusti è meglio di uno. Alighiero e Boetti l'ha risolta. Lei, io però previsto Alighiero Noschese, ovviamente. Previsto Alighiero e Noschese. Sì, Porto Bruno, Fomento e Sostella, e Vedova Mazzei. Cioè, perché poi mi sono reso conto, allora ho preso un po' di cataloghi della Biennale di Venezia, uno mettiamo dell'85, uno del 91, uno del 2000 e uno del 2014. Allora, se voi li mettete insieme, nel primo c'è una coppia, due, nel secondo ce ne sono tre o quattro, nell'altro otto, e nell'ultimo praticamente le coppie sono quasi quanto gli artisti singoli. Quindi è un fenomeno in crescita esponenziale, che a me è sembrato così. Io poi l'ho ricondotto a una lettura giovanile del critico come artista di Oscar Wilde, in cui il critico come artista si scindevano un po' le due istanze, l'artista e il critico, che per molto tempo sono state all'interno della stessa persona. Quindi quello che io ho pensato, ma così assolutamente senza ragione, è che nella contemporaneità, vista anche la crescita della complessità delle opere, c'è bisogno di questa istanza critica scissa. Questo non vuol dire che nelle coppie artistiche uno è il critico e l'altro è l'esecutore, tutt'altro. Una delle mie coppie preferite è Komar e Melamid, una coppia di russi, di artisti russi, che dipingono in modo completamente diverso. Uno proprio segue il realismo socialista, l'altro invece risente molto di più delle avanguardie. Quindi entrambi collaborano, e quindi io penso che ci sia un po' uno scambio, nel senso che uno propone delle cose, l'altro critica e poi viceversa, ma così tutto da verificare. Avrei voluto verificarlo veramente intervistando le coppie. Beh, ho parlato io, ho parlato solo io. Fatemi delle domande. Intervistiamo. No, l'hai vista la mostra 2 da Gustavo Giacosa alla Galleria Sic? No. È stata la prima di questa trilogia che hanno fatto. No. Ed era proprio sul doppio, sulla coppia, era molto bella. Ma coppia nell'arte? Coppia, beh, erano coppia, comunque outsider art, no? Certo. Per cui erano comunque anche lo sdoppiamento della stessa e della stessa persona. E quindi era veramente molto interessante. Quindi uno può anche lavorare sul proprio sdoppiamento, no? Alighiero e Boetti, Sì, ad esempio, però a te invece piace proprio il dialogo con un'altra persona, ma, diciamo, fisicamente esistente. L'ho rilevato come una novità, ecco, come una novità emergente che piano piano, perché per esempio appunto Sonia Delaunay, esatto, o anche insomma erano una coppia ma non lavoravano insieme. No, facevano, diciamo, cose autonome. Nella prima parte del Novecento, sì, che ne so, Antonio. Invece sai, quei due russi, Kabakov si chiamano, Ilya, e fanno delle cose insieme. Ma ce ne sono tantissime, guarda, veramente. Però questa cosa dello sdoppiamento secondo me si può vedere anche nelle tue opere, perché ci sta sempre un doppio livello, no? Ci sta. Spesso c'è il riferimento colto, il riferimento, insomma, questa è una cosa. Non però, colto, insomma, incolto. Sì, che però poi diventa volutamente quasi colto, no? Pop, eccetera. Per cui in qualche modo tu metti in dialogo dei livelli diversi. Sì. E quindi, insomma, questa mi sembra una cosa. Stamattina ci siamo scambiati dei vocali con Alberto, perché ci siamo quasi incrociati. Sì, ci siamo incrociati. Sì, sono venuto al suo molto divertente. A proposito, per esempio, dell'archivio, e lui diceva: a me piace da matti l'idea di archivio, quindi conservare e tenere in ordine tutta una serie di materiali, però nello stesso tempo è anche un limite, cioè anche qui c'è un doppio in qualche maniera, o meglio, forse una schizofrenia: da una parte la necessità di tenere traccia delle cose in maniera ordinata, schematica, e dall'altra la volontà di disseminare quanto più possibile e perdere. Che poi, se ci pensiamo, è il problema di tutti gli sposofobici, cioè dei malati di accumulo. Mio padre era un malato di accumulo compulsivo, che ovviamente non può buttare nulla, quindi è per la perfezione, l'incorniciamento, l'incorniciatura, non so, insomma, dell'idea di museo. E però allo stesso tempo, quando hai accumulato oltre ogni limite, non puoi più delibare quello che hai accumulato, perché è letteralmente travolto da te stesso. Questo in realtà però c'è un limite, no? C'è un oggi momento, mi viene contraddetto, no? Perché hai in realtà disseminato un grande ordine. Quindi, ma devo dire che qui c'è stata Stefania che ha avuto un ruolo. Vedi la coppia? La coppia. Dov'è Stefania? Alberto e Stefania, con lei commerciale. Sì. Sì. Beh, per le due Albertina. Ma Albertina invece c'è ancora? C'era. È arrivata un secondo e se n'è andata. Claudia? Benvenuta. Alberto Albertina. È giusto? Tipo Victor. Ma sì, siamo vieni con tutti, anche tu. Stiamo divagando più che, no? Sì. Divagando. Ma il doppio per te fa disperdere un po'. Mi fa disperdere. Perché poi effettivamente entrambi le cose. Poi siamo gemelli, no? Forse no, non c'entra niente. Diciamolo, ma buttiamola sui segni zodiacali che Aldo Nobile apprezzerebbe. Allo stesso tempo. Cosa? Siamo introversi e estroversi allo stesso tempo. Sempre così. Sempre così. Io sono anche un po' stronzo. Sei registrato, eh? Non è vero. Non sì, è sì, vero. Sì, me lo dicono tutti. Ma perché? Ma allora, sei un po' provocatorio. Lo dici. No, ma sì, vabbè, io mi detesto vivamente, no? Non so, non voi. Non ti sei simpatico? Voi vi detestate? Io devo dire, la persona che mi sta più antipatica è me stesso. Sì. Beh, anche perché la vedo sempre, questo. Con tutta sai, la quelle buona persone, volontà. Quelle persone che a un certo punto ti stanchi, dici, vabbè, scusi, non la sento più, la blocchi su internet. No, invece ogni mattina si ripresenta, tu vai a letto, dici, me ne sono liberato. La mattina, buongiorno, oh, rieccolo. Ti accollo. Ti accollo, cioè è una cosa. Non te ne passano due. Ma no, è uno, quello antipatico è uno. È uno solo? Uno solo, sì sì. L'altro lo tollero pure. Potremmo quasi saperlo però. Dici quali sono? Così. Quali sono? Così diamo appuntamento. Questi due? Ah, io ho fatto la sedia, quella gestalt. L'avete fatta voi? Quella divisa? No. Quella della sedia, due sedie. Qualcuno l'ha fatto? Perché non l'avesse? No. Dove stanno? No, però no, questo è proprio psicodramma. No, l'ho fatto a casa di una mia amica perché anni fa mi ero inventato questo gioco dell'analista. Ah, quello che ci ha proposto al bar quella volta, me Antonella. È vero, è vero. È vero. No. Ciao. Ciao, ciao Marina. Allora, sì, il gioco dell'analista consiste in questo: due persone che normalmente vanno in terapia, quindi devono avere una certa esperienza. Ciao. Mi sembrava molto giusto, sentito terapia, cioè, guarda, vieni qua, cioè, vieni fra noi. Allora, un'idea un po' così, un gioco: queste due persone che vanno in terapia si incontrano. E l'altra idea che, con cui l'ho unita è quella del tandem linguistico, in cui due persone parlano due lingue diverse, si incontrano, mezz'ora si parla in una lingua, l'altra mezz'ora nell'altra lingua. C'è uno scambio. Allo stesso modo, il gioco dell'analista consiste in questo. Tu ti per una mezz'ora uno fa il terapeuta e l'altro l'analizzato. Ma guarda, secondo me io ne ho fatto 4, quante ne abbiamo fatte? Insomma, non moltissime, e devo dire, ehi, Costanza, è un'antologica. Questa è un'antologica. Le cose come stanno? Nessuno me l'ha proposta. A quel punto, vedi, ti sei tanto antipatico. Poi, però, se non fosse stato per te, non ma io l'ho fatto apposta. Ho detto così, gli faccio fare una figuraccia. Ma tu sei qua, ci metti tutti in analisi. Cioè, facciamo 10 minuti. Questa è una terapia di gruppo. Siamo già in mezzo cinese. È arrivato al momento giusto, Maria. Questa è la c'è. Ecco perché ci hai fatto bene. Esatto. Bene. Alcolisti esatto. Anonimi. Scusa, sembra qua la Marina Bravo. No, quello è un istituto. No, però era molto era interna. Perché non dovevi dire niente, interna. No? Tu, cioè, quello ascoltava e basta. Allora, dipende dalla terapia che adotti. Io, per esempio, ho fatto tanto la freudiana, quindi quando io dovevo fare l'analista non dicevo nulla. Al massimo ripetevo una parola che diceva l'analizzato. E invece la persona con cui l'ho fatta aveva fatto la terapia, quella del Gestalt o Gestalt, voi come dite? Gestalt o Gestalt? A volte noi diciamo proprio. Come dite? No. Gestalt. Gestalt. Va bene, e quindi io saltavo da una sedia all'altra e quando veramente mi spostavo cambiavo proprio personalità. Erano due persone. C'è un Alberto buono, carino, gentile, tutti quanti, ah sì, timido. E c'era uno, infame, proprio così. Mio fratello lo sa, vero? È così, mi sono detto pronto. Conferma. È stata una delle tue vittime? Stefano è stato la mia vittima per eccellenza. Per la vita. E quindi così. Vabbè, se volete un po' di vino, chi non ha avuto il vino può abbinazzarsi, ci sono dei bicchieri, c'è uno aperto, c'è uno da aprire. Ce n'è uno finito e uno aperto. È finito? Allora apriamo, allora facciamo una pausa. E poi ricominciamo la terapia. Poi bisogna prima caricarsi. No. E poi diciamo a chi sei un ragazzo.